cambiano quel destino scritto da altre vite fa. È l'unica cosa che hanno almeno, è l'unica cosa in eredità. Lei qualche volta gli dice ti amo, ma non può essere tutto qua. Qua non c'è niente per nessuno, andiamo via, andiamo dai, andiamo va. Lei ha la foto di sua madre, un giorno o l'altro la guarderà, che così non vuole diventare, che così giura mai non sarà. Lui la foto di suo padre là dentro, impressa a fuoco nell'anima, impressa dal colbotto e insulti. Andiamo via, andiamo dai, andiamo va, salviamoci la pelle, che bello brutta è quella lì, prendiamola unica, salviamoci la pelle. Ci ha messo un anno a scriverla, lui ha lasciato sul comodino 2 lire che suo padre berrà. Bevono già molti loro amici, scappano via soltanto così, solo che la mattina dopo sono sempre lì, sono sempre lì, sono sempre lì. Salviamoci la pelle, che bella o brutta è quella lì, prendiamo la unica, salviamoci la pelle, tienti stretta e dimmi di sì. Verso che cosa andiamo, lei chiede, lui dice beh questo non si sa, però sappiamo bene cosa, non c'era qua, non c'era qua, non c'era. Poi lei si volta per un momento, guarda quel posto ed accenna un ciao, lui a quel posto gli sputa contro e spinge sul gas. Salviamoci la pelle, salviamoci la, salviamoci la pelle, salviamoci la pelle, che abbiamo solo questa. Salviamoci la pelle, salviamoci la pelle, salviamoci la pelle, che quello che ci resta. Salviamoci la pelle, salviamoci la pelle, salviamoci la pelle. Abbiamo solo questa, salviamoci la pelle, salviamoci la pelle, salviamoci la pelle, che quello che ci resta.